Un momento di incontro fra due realtà che convivono nella stessa zona, in passato in contrapposizione fra loro, ora in un'ottica di dialogo e di reciprocità di ruoli. Imprese e città del Nord-Est si confrontano da questa sera fino a domenica in 7 località diverse, da Montebelluna a Schio, Conegliano, Rovereto, Valdagno, Maniago e Vittorio Veneto. Dialogheranno sotto uno stesso slogan: perché la città torni a diventare impresa e l'impresa torni ad essere città. Enzo Rullani è presidente del comitato scientifico del Festival delle Città Imprese. Noi abbiamo preso le città come punto di riferimento, non le fabbriche, perché le città sono il nuovo modo di essere dell'economia di quest'area, nel senso che coinvolgono la società. E noi ci rendiamo conto che per essere presenti nell'economia che vuole diventare globale è fondamentale avere una organizzazione produttiva che mobilita l'intelligenza sociale. Più di 200 gli eventi in programmazione si svolgeranno contemporaneamente nelle località coinvolte e daranno spazio alle voci di sindaci, imprenditori ed economisti che si confronteranno su quella che gli organizzatori definiscono come una nuova e radicale trasformazione del Nord-Est, sia sul lato urbanistico e architettonico, sia sul fronte della struttura industriale. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore.